140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco i protagonisti dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Cinemanteo, Milano. Smetto quando voglio diventa trilogia. In sala Masterclass, secondo capitolo. Regia di Sidney Sibilia, eccolo con Edoardo Leo e Valeria Solarino. Voglio subito sapere l'ansia da prestazione. Allora, i sintomi sono intanto chiusura dello stomaco, spasmi addominali, sudorazione eccessiva, imbiancamento dei capelli. Sai che ho notato che qualche capello grigio è arrivato? Cioè, il primo giorno di riprese proprio. Motore. Cioè, che cazzo è? Mi sono trovato così col, sai che tipo gli X-Men quando a un certo punto gli escono le ciocche. È successo anche a Obama di diventare grigio. Capito. Però è più curiosità la mia. Cioè, questo film lo sposo talmente tanto, più dell'altro, visto che mi piace molto più dell'altro, e che sono proprio curioso di vedere, ed è anche più sperimentale rispetto all'altro, rappresenta l'altro era, diciamo, in un filone più codificabile, e quindi sono più curioso che ansioso, a dirla tutta. Edoardo, tu cosa ne dici? Visto che per una volta c'è scritto un film di Sidney Sibilia, tu quindi la responsabilità almeno della riga, un film di, stavolta non è tua? No, non è mia, però... Però poi comunque qua c'è... La faccia subito. L'unica faccia seria di tutta la banda è la mia. Per cui... No, ma è ovvio che questo è un progetto che anche rispetto ad altri film sento molto più mio sulle spalle, sia perché comunque quando abbiamo... Ogni tanto ce lo diciamo con Sidney, quando eravamo a Bangkok a girare, diciamo, te lo ricordi quel giorno che siamo visti? Ho detto, ma devo fare quest'opera prima, è un film carino, ti va di leggerlo? Io l'ho letto, sì, però guarda, io non so se riesco a farlo. Ed era, no, un film da fare, una cosa di lavoro. Poi è diventato un progetto in cui c'è molto più affetto di altri progetti, tant'è che ho sposato, dopo averlo letto, l'idea di fare il secondo e addirittura il terzo capitolo, e quindi decidere consapevolmente di lasciare. Lo so questo, che comunque Pietro Zinni è un personaggio che mi rimarrà addosso, però è un rischio che un po' mi andava di correrlo, perché mi sta simpatico Pietro Zinni a me. Zinni Pietro, banda armata e associazione a delinquere. Pietro, parliamo di 10 anni di reclusione. Appunto, il peggio è passato. Che altro può succedere? Ho un modo per farlo uscire di galera. Prego. Sono una banda scalcinata di ex ricercatori universitari. Consegnatemi 30 sostanze ancora legali e io vi garantisco libertà e fedina penale pulita. È un accordo ufficioso. Per la polizia non esistete. La vita ci sta dando una seconda possibilità. Rimettiamo sulla banda. La sicurezza di Roma è in mano a questi disperati. Questi li abbiamo. Non possiamo sgarrare. Niente più mignotte, niente più macchine sportive, ma soprattutto niente droga. Posso farti, Sidney, la domanda più banale del mondo, però mi sento per un momento di banalità. Allora, com'è cambiato tutto da allora? Sì, ma in realtà non eccessivamente, devo dire. Poi l'approccio mio al lavoro è sempre stato uguale, ma io ce l'ho sempre avuto uguale dai corti, con stesso entusiasmo e professionalità, da quando non mi pagavano a quando mi pagavano pochissimo. E ad oggi è chiaro che sentivo più forte la responsabilità verso il pubblico, ma io l'ho sempre sentita, cioè con lucidità. Appena comincio a scrivere un film, e questo qua ci è voluto 1 anno e mezzo, e la prima cosa che attacchiamo al muro, perché mi piace vederlo visivamente il film, quindi attacchiamo tutto, la prima cosa è attacco 8 euro, che è il costo del film al fruitore finale. E quindi io dico, da qui partiamo e dobbiamo fare un film che abbia questa... Ma l'avevo fatto anche col primo e lo farò anche con i film successivi. E quando fai una cosa di natura un po' sperimentale, quello che dico sempre pure a loro, questo qui è una proposta cinematografica, conteremo quanti siamo, cioè ci contiamo, vediamo quanti siamo che apparteniamo a questa cerchia, perché poi io faccio sempre solo operazioni sincerità, cioè faccio finché io andrei a vedere per primo. Cannone acustico a onde d'urto. Reggetevi. Ma è una figata! Signori, questa è una categoria antropologica che io maneggio ad occhi chiusi. Ah, Bucione! Dai, che fai, non mi riconosci? Stava a mangiare siamo all'arte dello stazione. Dal Sassone. Dal Bugliaccaro? Può essere. Ma quale può essere? Guarda che mi sta a far timido, mi portacci. Io temo solo che sarebbe un po' difficile passare inosservato. Starei per partorire tuo figlio. Lo finisco una cosa e vengo. Cosa che vuol dire tutto questo, sì? Che stiamo per morire? No, che siamo tornati. Come produttivamente la storia del secondo e terzo capitolo, come sono stati realizzati, come vengono realizzati? Cioè hai chiuso il secondo, già iniziato il terzo, come funziona? Il primo giorno di riprese era intorno ai primi di marzo e abbiamo girato la mattina una scena del 2 e poi siamo andati in pausa e il pomeriggio abbiamo girato una scena del 3. Cioè è stato girato totalmente, completamente, come dicono quelli bravi, back to back. Cioè sono stati, il terzo non è stato post prodotto, quindi che è una parte altrettanto importante di un film. Loro hanno fatto tutto quello che dovevano fare, ma quando li metti insieme? Tu li vedi, non riusciamo a fare manco le interviste. Il bagno, le cose, quello là, è impossibile. Quindi era l'unico modo era farli insieme, tenerli uniti per 8 mesi, è stato un viaggio lunghissimo e bellissimo però. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Sidney Sibilia, Edoardo Leo e Valeria Solarino. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.